Ringraziamo Gesù della sua presenza, della sua presenza eucaristica. E del suo accompagnarci in questi giorni di preghiera, del suo permetterci di adorarlo così a lungo e senza soste, senza mai stancarci, senza limiti se non quelli dovuti a così alle incombenze normali della giornata. Noi Gesù stiamo cercando di ripassare anche alcuni fondamenti della nostra fede, la creazione, la vocazione, la santità, l'apostolato, il peccato e la misericordia, e attraverso le vicende del tuo Vangelo e in particolare gli incontri con le donne del Vangelo, oggi abbiamo privilegiato alcuni degli incontri che narra San Giovanni nel giorno della sua festa, il discepolo amato, colui che appoggiò il capo sul tuo petto per chiederti chi è, Signore, chi è? Nel momento della maggiore prova, quando tu sveli in un'ora come questa, no? Nell'ora della cena, dell'ultima cena, nei dialoghi con i tuoi discepoli, sveli che uno di loro ti tradirà, quindi in un momento di perdita di sicurezza, di dolore, di incertezza, con la tentazione del fallimento o la tentazione dell'accusa o anche la tentazione o il timore di pensare, più che la tentazione, il timore, la certezza di pensare posso essere anche io, no? Allora nel momento del maggiore dolore il discepolo amato giunge al momento della più grande intimità, è così. Vorremmo fare anche noi. E peraltro in quegli stessi istanti, in quegli stessi momenti, in cui tu sveli queste tue pene, anche il rinnegamento di Pietro, lo prevedi e mi lascerete solo. Ma io non sono solo perché il Padre è con me. In quei momenti tu dai ai tuoi discepoli il comandamento nuovo dell'amore, cioè non perdi, pur svelando i fatti negativi, no, dei tuoi, non perdi la fiducia nel fatto che noi possiamo arrivare ad amarci come tu ci hai amato, cioè ad essere così totalmente identificati con te, da amarci come tu stesso ci hai amato, da essere così figli del Padre, da essere come te, no? Da amarci con il tuo stesso amore. E la grandezza dell'Eucaristia ci fa tornare in mente questi momenti, l'Eucaristia che contempliamo adesso sull'altare, e allo stesso tempo anche il fatto che è memoriale della morte e della risurrezione, quindi ci può portare a fare un altro passo nel nostro cammino e forse ci possiamo fare aiutare ancora da Giovanni e da altre due donne importanti che conosciamo bene, che amiamo tanto, no? Che sono Marta e Maria, sua sorella. Nel Vangelo di Giovanni compaiono nel capitolo undicesimo, e quando un certo Lazzaro di Betania era malato. Noi conosciamo dalla nostra formazione nella fede che appunto che dopo il peccato è entrata la morte nel mondo, è entrata anche la malattia. E però sappiamo che tu queste realtà, la morte, la malattia, diventano per te segni della tua presenza di Messia, di Salvatore. Guarisci, fai risorgere. E per te, che non hai malattia, ma puoi soffrire, di fatto soffri tanto sulla croce, nella tua passione e nella tua morte, la tua morte diventa strada per la risurrezione, quindi la primizia, il primo atto, l'atto decisivo con cui verrà anche sconfitta quest'ultimo nemico, come la chiama San Paolo, no? E San Francesco la chiama sorella morte perché ci porta, è una porta che ci porta a incontrarti definitivamente in modo nuovo, no? A vederti come tu sei, no? E questo testo, questo lungo capitolo della malattia, della morte di Lazzaro, mette in evidenza questa l'amicizia tua con Lazzaro e con queste due sorelle. Noi siamo molto contenti che la nuova traduzione di valore anche liturgico del 2008 dica Gesù amava Marta e sue sorelle Lazzaro. Prima si diceva voleva molto bene o voleva bene, qualcosa del genere. È giusto perché rende meglio il verbo greco e che è diverso da quello che diceva prima. E la persona, ecco colui che, il verbo è diverso, dicono colui che tu ami è malato. Lì sarebbe forse meglio, ma comunque non ci fermiamo su questi dettagli, tradurre colui a cui tu vuoi bene. No? Noi invece ci appassioniamo a contemplare la tua amicizia, no? L'amare Lazzaro, l'amare Marta, l'amare Maria di Gesù. Sei tu il protagonista di tutto il Vangelo, di questo episodio e della nostra vita. Sei tu il primo che ci ama, no? Noi corrispondiamo al tuo amore. È più facile così, è più facile. A volte, per essere certi che tu ci ami, abbiamo bisogno di fare un atto di fede, lo vogliamo fare anche in questo momento. Credo, Signore, che tu mi ami. A volte questa fede è nuda fede, sola fede, nel senso che non è accompagnata dalla percezione sensibile, non è accompagnata dal tuo abbraccio, dal tuo sguardo, dalla gioia che sei capace di infondere nella nostra anima, e questo a volte ci scandalizza. Perché fai così, Gesù? E forse la tua risposta può essere diversa a seconda di chi ti fa la domanda, però forse appunto tu a volte la risposta può essere perché se io mi nascondo un po', se io sto un po' in silenzio, come accade in questo episodio che conosciamo bene, no? Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava, cioè Gesù che non risponde alla richiesta, che si ferma, che non va, no? Gesù che non corre. Misterioso, beh, perché lo comprendiamo, perché c'è un disegno, vogliamo credere che ci sia sempre un disegno. E tu Spesso stavo pensando, la risposta che ci puoi dare è perché voglio che tu mi ami nei miei fratelli, nelle mie sorelle, voglio che tu mi trovi in quel tempio che sono ciascuno di loro. Lo voglio davvero. E posti ad avere la testa dura, Gesù ci dice, io ce l'ho più dura di te. E quindi insisto, insisto. È ovvio che il Signore sarebbe capace di riempirci di un amore tale che non c'è più nessun problema. Se è vero quello che è, sicuramente è vero, lo capiamo anche, lo capiamo teologicamente, filosoficamente, con quello che tu dicevi a quella santa che si preoccupava della sua amica, ma se tu sapessi quanto le amo, non... Quanto amo quella persona per cui tu sei preoccupata, e non potresti pensare ad altro per tutto il resto della tua vita, no? Per tutti i giorni della tua vita. Cioè, il sapere quanto Gesù ama un'altra persona, non me, ma se lo so davvero nella sua sostanza, nella sua verità, è così forte che non riesco neanche a friggere 2 volte gamino, cioè sono così bloccato ormai. Non riesco più a lavorare, a parlare, è così forte. Per cui tu sei in grado di dirmi questo, cioè di riversare amore nel mio cuore. Se non lo fai, perché? Allora la domanda, no? Una possibile risposta è questa: desidero che tu mi ami nei miei fratelli e nelle mie sorelle, che tu comprenda che il loro corpo è il mio tabernacolo, no? La loro umanità. A volte appare bella, altre volte appare fragile o malata, appunto, no? Forse queste 2 sorelle non lo sanno ancora, ma anche in Lazzaro loro stavano amando Gesù mentre lo curavano, no? Poi disse andiamo, eccetera, e quindi bene, vanno, arrivano, Gesù tutto sicuro, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo, del sonno. Questa è così. Questa medicina popolare, no? Questa sapienza così che si passavano. È anche bello vedere che non si sorprendono i discepoli di sentire dalle parole di Gesù delle parole di sapienza umana. Gesù, sei veramente uomo, Gesù, sei molto umano. Parli anche così che il sonno guarisce, non so, queste cose qua, no? Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. A Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui. C'è un po' di tutto sempre, no? È un po' come la nostra vita, la vita degli apostoli con Gesù, quello che non capisce, quell'altro che capisce Roma per Toma, quell'altro che non sente, dice come? Quell'altro che dice andiamo a morire con lui e poi subito dopo si contraddice, dice, fa il contrario di quello che ha detto. È la vita della Chiesa, la vita di una famiglia normale, con litigi, con mediocrità, con miserie, con fughe, con cose che non capiscono. Questa è la nostra compagine, è la Chiesa, che questa è la realtà che tu hai messo in piedi, Gesù. Non è una realtà di perfetti, mai. Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Tutto il Nuovo Testamento, cioè, un po' mi... Vabbè, nel Nuovo Testamento c'è sia, diciamo, diciamo la verità, ci sono delle frasi degli Atti degli Apostoli che dicono idilliache, no? Tutti condividevano tutti i loro beni ed erano esemplari, ed erano una meraviglia. Però subito dopo dice anche altre cose, no? I problemi. Le lettere di San Paolo sono tutte piene di lodi a Dio che, ecco, e poi dipende dalle comunità, alcune sono più brave, sembra, altre meno. Ma in quel momento lì. Però poi dopo la lode, dopo la gloria a Dio, dopo i ringraziamenti a Dio per tutto, viene fuori il problema per cui scrive quella lettera. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Gli esegeti di oggi fanno molta fatica, guardano con orrore il fatto che si mescolino i Vangeli. Vabbè, però in effetti c'è una consonanza con il carattere, il ritratto che San Luca fa di Marta e di Maria in quell'altro episodio, no? Che è breve, dove Maria è seduta e Marta invece è più attiva. Ma quello, se Dio vuole, magari lo porteremo in un'altra meditazione. C'è una consonanza, sono caratteristiche diverse delle sorelle. Sono sorelle che si vogliono molto bene, ma sono molto diverse e reagiscono in modo diverso alla... Non sappiamo se, qui non si capisce bene, se Marta è scappata fuori senza dire a Maria guarda che è arrivato Gesù, oppure hanno sentito tutte e due la notizia e una corre e l'altra si ferma. Ma vanno bene tutte e due le cose. Sono normali tutte e due le cose. Normali. Cioè, allora Maria non voleva bene a Gesù, ma non è vero. È stanca, è depressa, non so. Oppure Marta nella sua fretta non l'ha avvertita, no? Come succede a noi spessissimo. Non mi hanno avvertito, no? Eppure adesso c'è anche WhatsApp, perché non mi hanno scritto un WhatsApp per dire che era cambiato l'orario della casa, che... o non so, che... Vabbè. Oppure mi ha lasciato un biglietto in bacheca, oppure... E magari non l'hanno avvertita. Ma anche questo è normale. Succede nelle migliori famiglie. Marta, anche se dobbiamo impegnarci ad avvertire, ovviamente, no? A dire, ma è normale che succeda anche con le migliori intenzioni, avendo noi una famiglia numerosa. Poi succede anche il contrario, grazie a Dio che tutti hanno saputo che il padre era morto prima della notizia ufficiale, tutti forse no, però i WhatsApp sono arrivati subito e alcuni erano dubitativi proprio perché non avevano... Comunque bene, è bello anche così, nel senso che ci vogliamo bene al padre, insomma è ovvio che ci comunichiamo subito se è questa notizia di, ecco, la notizia della morte, per pregare, per essere uniti, no? E io ho ricevuto il messaggio di lui, dice, ma c'è questa notizia, ma sarà vero, sarà una bufala, no? Poi arriva il messaggio di Don Robin, come avrete tutti già saputo, siamo qui che preghiamo. Vabbè, io ho fatto 2 più 2, no? Uguale 4, ma non è che... Ma non me, scusami, che cosa dovrei aver saputo? Gli ho scritto comunque nel frattempo. Nel frattempo poi. Io ero a Palermo e quindi telefono a Don Matteo che non mi risponde perché anche lui non aveva ricevuto ancora la telefonata ufficiale. Volevano avvertire il Papa prima. Bene. Tutto questo ci sta, no? Nella vita di una famiglia numerosa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Veramente questa Marta è un tipo molto forte, molto in gamba, molto, cioè un personaggio potente, no? Interiormente, umanamente, ma anche come fede. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Maria, e gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Questa è una fede che c'era già nell'Antico Testamento, anche se si è rivelata poco a poco, no? Soprattutto negli ultimi libri. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo, il venente, no? Nel mondo. E in un commento ho letto questa dichiarazione di fede, questo atto di fede è più forte di quello di Pietro, è più forte di quello di Natanaele. Quindi l'atto di fede più completo, più forte, ecco, del Vangelo di Giovanni è detto da una donna che si chiama Marta, dopo questo dialogo insomma, densissimo, completo, in cui Gesù quasi la mette alla prova perché è la porta a questo atto di fede imponente, no? Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. Questo io penso che, cioè prediligo il pensiero che Maria era seduta in casa perché non sapeva, no, che Gesù era arrivato. Comunque, il maestro è qui e ti chiama. Udito quella, e si alzò subito, e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Marta è più informata, insomma, è più attenta alle notizie che arrivano, insomma, si è accorta prima, no? Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E poi si mette a piangere, no? Io penso che queste due sorelle, nel parlare tra di loro, nel consolarsi, nel cercare di capire perché Gesù non è arrivato, perché Gesù non ha risposto al loro appello subito, queste due sorelle hanno pensato questo, no? Se il Signore fosse stato qui non sarebbe morto Lazzaro, però adesso gli chiediamo, appena arriva gli diciamo questo, no? Però so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Solo che nel formulare questa orazione unita, questa orazione unanime, questa stessa preghiera, Maria non riesce a dire l'ultima frase perché si mette a piangere. E Gesù reagisce con lei in modo molto diverso da come ha reagito con Marta, perché lui ama queste donne, le donne della sua vita, possiamo dirlo così, e le sue discepole, le sue apostole, le sue amiche, le sue sorelle, le le sue madri, le ama in modo personale, quindi diverso l'una dall'altra, diverso. Noi che per chiamata di Dio, per compito, cioè, cerchiamo di avvicinare le persone una a una al Signore, facendo un apostolato personale che di fatto nostro padre lo definiva come una direzione spirituale, anche se non si chiama così, e poi dopo con le persone che sono già vicine al Signore, anche gli offriamo a loro la direzione spirituale, una direzione spirituale sacerdotale e anche laicale. Allora questo è importante che lo meditiamo bene, non può essere una ricetta valida per tutti, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che ci illumini, ma soprattutto che illumini quella persona perché è lui che la santifica, è lui il modellatore, no? E noi nella direzione sociale asseconderemo, cercheremo di comprendere il lavoro che sta facendo lo Spirito Santo in quell'anima e guarderemo Gesù che è il modello e poi la vita dei santi e in modo particolare la vita di nostro padre ma e delle altre persone sante nella Chiesa, le persone sante nell'opera. Insomma, e che più ce ne sono, più sono diverse tra di loro, si assomigliano tutti nell'identificazione con Cristo, ma sono ciascuno diverso dall'altro, no? Gesù ama Maria in modo personale, in modo diverso, il dialogo con lei, l'orazione con lei è diversa. L'orazione di Gesù con Maria, il dialogo di Gesù con Maria è piangere con lei, ascoltarla e piangere con lei. Non le dice una parola. È un altro silenzio, un silenzio di Gesù pieno di lacrime, no? Che molto spesso è un esempio per noi, quando c'è un dolore grande. Forse spesso è la cosa più santa, più bella, più utile, piangere insieme. Che Gesù avrebbe potuto dare una spiegazione: no, ma stai attenta, guarda che adesso fra poco si risolve tutto. Invece ha colto la profondità di quel dolore, ha voluto parteciparlo totalmente, hai voluto tu Gesù sentirlo totalmente nel tuo cuore, non in un, e ci fai capire che tu hai questa consonanza con noi, anche del cuore, dei sentimenti, della commozione. Si commosse profondamente e molto turbato, domandò cercando di resistere al pianto, facendo una domanda per sviare l'attenzione del suo cuore, della sua mente, per cercare di resistere a questa spinta a piangere che aveva dentro. Gli dissero: Signore, vieni a vedere, e Gesù scoppia in pianto, non ce la fa. Gesù non ce la fa, perché dobbiamo resistere noi, no? Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Una volta ho fatto una ricerchina, niente di che, insomma, sui testi pubblicati anche di San José Maria sulle lacrime, dice delle cose bellissime, sul valore delle lacrime, il valore del pianto, no? Per cui non è una realtà molto umana, anche gli uomini piangono, diceva, ecco, ed era una delle prime. Dei primi pensieri che aveva quando doveva mettere in evidenza l'umanità di Cristo, no? Il suo pianto, la stanchezza, il pianto. Ecco, dissero allora i giudei: guarda come lo amava, ma alcuni di loro dissero: ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. E rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Quindi Marta è attenta anche sia all'aspetto umano, ecco, dello spettacolo poco edificante di un corpo già che si corrompe, spettacolo e anche il cattivo odore, no? Da buona donna che si occupa dei profumi e anche della bellezza di una casa, no? Del garbo, dell'eleganza, del bello, no? Poi forse voleva, ecco, presentare suo fratello in vita a Gesù, perché lo guarisse, ma è già morto. Come umana Marta, come umano Gesù, è umano e sull'umano si appoggia il soprannaturale, la fede che Gesù può fare questo miracolo. Allora, ecco, Lazzaro, vieni fuori dopo aver pregato il Padre. Grazie perché mi hai ascoltato, mi ascolti sempre. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Allora, noi guardiamo il mistero della malattia e della morte sulla base della fede nella risurrezione. Questa è anche la sapienza pedagogica del Catechismo della Chiesa, che affronta tutte le realtà più dure, più difficili, però a partire dalla luce della rivelazione, la morte, dopo aver parlato della risurrezione, il peccato, dopo aver parlato della misericordia, del perdono, della grazia. Così dobbiamo fare anche noi nella nostra catechesi, no? Eppure è una realtà, appunto, che noi abbiamo toccato con mano, i nostri fratelli, le nostre sorelle, e sempre più per il fatto che siamo famiglia numerosa e per il fatto che stiamo crescendo, no? I primi anni dell'opera erano tutti giovani, quindi era più rara questa esperienza, no? E 50 anni fa, che so io, 40 anni fa era un po' più rara, no? Adesso è molto frequente e quindi, e anche abbiamo avuto l'esperienza del padre e della sua morte anche semplice, normale, che la grazia del Signore ha voluto attorniata dall'affetto dei suoi figli e delle sue figlie e nella provvidenzialità del campus biomedico, che è allo stesso tempo luogo di cura, oltre che di studio, ma anche casa nostra, no? Per questo l'aveva voluto Don Alvaro. E quindi noi chiediamo al Signore di poter guardare questa realtà e affrontare il dolore del distacco e anche per prepararci alla nostra morte, no? Come chiediamo tutti i giorni a Maria, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte, come preghiamo tutti i giorni, prepararci all'ora della nostra morte con la fede nella risurrezione, la fede nella vicinanza del Signore, la fede nell'incontro con Lui definitivo e anche con tutti questi suoi amici, no? I santi Marta, Maria, Lazzaro, Giovanni, l'Evangelista e Maria, nostra madre, il Padre, no, nostro Padre, i santi del cielo, i nostri fratelli e le nostre sorelle che ci possono aiutare a compiere questo passaggio e poi a godere per sempre della gioia di Dio in cielo.